5. Ascolta e controlla. 1. Di la verità quando è necessario. Dica la verità quando è necessario. 2. Fai sempre il tuo dovere. Faccia sempre il suo dovere. 3. Dai una mano a chi ha bisogno di aiuto. Dia una mano a chi ha bisogno di aiuto. 4. Stai qui con noi ancora un po'. Stia qui con noi ancora un po'. 5. Vieni qui ogni volta che ti chiamo. Venga qui ogni volta che la chiamo.